Mariposa, Corso Lodi numero 1 a Milano, ti invita all'ascolto di È l'appuntamento del martedì, replicato il giovedì, e risulta essere anche l'ultimo appuntamento di Hard and Heavy su Rock FM. Sì, siamo arrivati praticamente al traguardo con questa puntata di martedì, quindi Marco Gravelli, come sempre, ringrazia voi che mi avete seguito per anni e anni e anni. Simone Scavo, il mio autore, anche lui mi ha seguito per anni e anni e anni, ha preparato comunque diligentemente anche l'ultima scaletta di questa nostra puntata. Una scaletta incentrata nella prima parte con tante novità, anche all'inizio della seconda parte, poi chiuderemo con un'intervista insieme a tre chitarristi italiani che portano il nome di String 24. Iniziamo con un gruppo storico, cioè i King's X. A 3 anni di distanza dal precedente Ogre Tones, questa settimana pubblicano il nuovo album intitolato 15, o meglio scritto in numero romano, con la X e la V. Album che in origine si sarebbe dovuto intitolare Go to Hell Somebody, ma che in aprile è stato cambiato in semplice appunto 15, perché è il 15° album della storia di questa formazione, composta da Doug Pinnick alla voce al basso, Ty Tabor alla chitarra e Jerry Gaskill alla batteria. L'album è stato registrato a Nashville presso i Wild World Studios con il celebre produttore Michael Wagner e viene aperto da questa canzone intitolata Pray. Yeah. questa ottima storica band chiamata King's X abbiamo dato il via al nostro ultimo appuntamento di Arden Davy su Rock FM. Era l'album nuovo, 15, il quindicesimo, la canzone quella che apriva il lavoro, cioè Pray. Dalla formazione dei King's X ai Dust Sucker, che arrivano dalla Germania, arriveranno alla fine della prossima settimana con la pubblicazione di questo nuovo sesto album dal titolo Diablo Damnation. La band nasce nel 93 e nacquero all'epoca come un semplice duo. L'esordio era autoprodotto e venne pubblicato nel 94, seguito 2 anni dopo dal secondo album. Arriveranno poi altri lavori e da 2 anni di distanza dalle precedenze è il turno di questo Diablo Domination, musicalmente a metà tra il rock and roll, il metal e il punk. Il pezzo che lo apre si intitola Lost and Forgotten. And Forgotten dall'album Diablo Domination per i tedeschi Dust Sucker, che abbandoniamo per andare in Grecia con l'ottimo nuovo album dei Firewind, questa band capitanata dal chitarrista appunto Garth G, che arriva dalla Grecia. Alla voce troviamo il bravo Apollo Papatanassio, ex Majesty, Time Requiem e Medusa, che dal vivo è davvero una forza, mentre alla batteria c'è l'altrettanto bravo Mark Cross, già con Halloween e Natalium. Da quando sono entrati in line-up il gruppo ha cominciato a ottenere successo. Questo denota l'importanza dei due musicisti. Per quanto riguarda Gus G, dopo essersi diviso per varie band, tra i quali Dream Evil, Mystic Prophecy e per un breve periodo anche negli Arch Enemy, ha deciso di concentrarsi solo sul Firewind e i risultati gli danno ragione. L'album è stato anticipato dal singolo Mercenary Man, che è arrivato al numero 6 in Grecia. Oggi lo andiamo a proporre e ascoltare con la traccia numero 2. 2. Da questo The Premonition, il motivo si intitola Head Up High. Valido il nuovo album per la formazione greca dei Firewind. Album intitolato The Premonition, questa era Head Up High. Andiamo invece al nuovo album del chitarrista finlandese Lars-Erik Mattsson, che esce con il nome semplicemente di Mattsson, scoperto nel 1985 dal Tales Count dei chitarristi, cioè il celebre Mike Varney. L'esordio discografico a proprio nome risale al 1988 con l'album Eternity, ma c'è da menzionare che nel 92 ha creato i Vision, con il quale ha inciso ben 4 album. Questo nuovo lavoro si intitola Dream Child. Vi sono ben 12 brani e Mattsson è impegnato a suonare oltre la chitarra anche il basso e le tastiere. Alla voce troviamo la cantante ungherese Adrien Antal e il cantante Bjorn Lodin dei Baltimore. Il pezzo che andiamo a proporvi si intitola Killing Everything. album con molte parti strumentali, trattandosi di un lavoro dedicato a un chitarrista, questo finlandese Lars Erik Mattsson, con il suo nuovo lavoro dal titolo Dream Child. Abbiamo ascoltato Killing Everything. Andiamo in Germania, album d'esordio per questa formazione composta da quattro elementi, si chiamano Clusterhead, anche se sono nati 3 anni fa, nel 2005 hanno pubblicato 3 EP e arrivano all'esordio con questo Times of No Trust, album composto da 11 brani. Dalla Germania, Clusterhead. Now and out, time and time, a throw of pain will grow and grow. dai tedeschi Cluster Head. Andiamo a concludere la prima parte del nostro ultimo appuntamento di Art and Davy con Michael Kiske. Il nuovo album si intitola Past in Different Ways, è uscito da poche settimane, un album unplugged per il cantante tedesco ex Halloween. Da tempo ha preso le distanze dal mondo metal che lo aveva reso celebre, anche se spesso lo ritroviamo come special guest negli Avantasia, nei Tribuzzi e nel recente album Revolution Renaissance di Timo Tolkki. Questo nuovo lavoro, Past in Different Ways, riprende le canzoni che ha scritto negli Halloween, anche se in realtà un paio di queste erano state scritte per la sua primissima band, il tutto risuonato in versione unplugged. Tra i musicisti che lo accompagnano segnaliamo Sandro Giampietro, che lo segue dal suo progetto Superhead, ed era stato durato un solo album. Il pezzo che andiamo a proporvi è uno dei pochi non voiceover in questo album che viene pubblicato dalla Frontiers, si intitola You Always Walk Alone, Michael Kiske. We have Sei diventato grande con le Ziguli? Le Ziguli non sono solo caramelle. Da sempre sono un mondo di fantasia, dal gusto inconfondibile, e soddisfano ogni palato, anche quello più esigente. Voglia di fragola, limone, arancia? Ziguli è tutti questi gusti. Oggi le mitiche caramelle le puoi trovare anche nelle pratiche confezioni pocket, nei gusti frutta, liquirizia e cioccolato. Chiedile al tuo bar e ritorna bambino. Rock FM Spot. Rock in Field Festival con Rock FM, sabato 26 luglio all'Idroscalo di Milano. Barley Arts dedica il Festival Metal a Rock FM, insieme da sempre. Rock in Field 2008 con Avantasia, Halloween, Epica, Vision Divine, Threshold, Biomechanical, Eluveitie ed altri ancora. Info su rockinfield.com. Live presenta Queenstrike in concerto. I leggendari Queenstrike tornano in Italia con il loro concept Operation Mindcrime al gran completo. Tutti gli attori, gli schermi e la scenografia per uno show da non perdere. Sabato 7 giugno, Milano, Alcatraz, via Valtellina 21. Infoline 055 55 20 575. www.liveinitaly.com in collaborazione con Rock FM. Live presenta Taria più Passion Works in concerto. La stella più luminosa del rock finnico, la bellissima soprano Taria, sta per approdare in Italia col suo Storming Europe Tour, accompagnata da Passion Works. Mercoledì 21 maggio all'Alcatraz di Milano, via Valtellina 21. Taria più Passion Works. Infoline 055 55 20 575. www.liveinitaly.com in collaborazione con Rock FM. Seconda parte di Hard and Heavy per questo martedì, ottimo album, il quinto per questa band danese chiamata Mercenary, che già nelle scorse settimane vi abbiamo proposto con un altro motivo. Loro sono prodotti dall'esperto Jacob Hansen, arrivano con questo album che è il quinto. Il precedente aveva vinto anche un Danish Metal Award come miglior album del 2006. Questo nuovo si intitola Architect of Lies, vede anche un cambio di lineup con l'ingresso di un nuovo bassista cantante per le parti più gross. In effetti si alternano il cantato pulito a quello più urlato, e l'album alterna in effetti tracce più potenti ad altre più melodiche. È disponibile anche una limited edition con una bonus track ed un bonus DVD con brani video dal vivo, più uno studio report e il video di una traccia dell'album precedente. Andiamo ora alle isole Faroe, da dove proviene questa band chiamata Tear. Uscirà alla fine della prossima settimana il loro quarto album, intitolato Land, gruppo composto da quattro elementi. La band risale alla fine degli anni 90 e dopo l'omonimo demo del 2000 arrivano all'esordio con l'album How Far to Asgard, al quale segue il secondo lavoro dal titolo Eric the Red, che aveva catturato l'interesse dell'etichetta Napa Records, che lo aveva poi ristampato nel 2006. Sempre nel 2006 era uscito il terzo album Ragnarok, che era un concept. Il nuovissimo album Land, dicevamo, uscirà la prossima settimana, presenta 10 tracce cantate in inglese e anche in lingua madre. La band attualmente è impegnata in un tour americano e dalla fine mese tornerà in Europa per altri concerti, ma non suonerà qua in Italia. Andiamo ad ascoltare questo brano, si intitola Brennevin, dal loro nuovo album Land. Sono i Tear. appuntamento con le Metal News. Partiamo con i Narnia, la band svedese attualmente in studio per registrare il nuovo sesto album con il produttore Fredrik Nyström. Ha reso noto che il cantante Christian Rivel ha lasciato la band per dedicarsi ai Divine Fire. Pertanto sono alla ricerca di un nuovo vocalist. La symphonic metal band svizzera dei Lunatic, dal cantato femminile, sta lavorando al nuovo quarto album. L'uscita è prevista tra la fine del 2008 e il 2009 e come special guest abbiamo John Payne, ex Asia, e Jimmy Jameson, ex Survivor, a livello di cantanti. Serenity, ad un solo album di distanza dall'esordio, torneranno sul mercato i prog metallers austriaci con un nuovo secondo album, il cui titolo sarà Fallen Century. Ci saranno 10 brani più una canzone per la limited edition. L'uscita è segnalata per il 4 di agosto su etichetta Napalm Records. La band italiana dei Secret Sphere presenterà il prossimo album come concept. Si intitola Sweet Blob Terry, 12 brani. Il concept, come suggerisce il titolo, è incentrato sui vampiri e verrà registrato presso gli Automa Studios, mixato dal famoso Achim Köhler, già noto per aver lavorato con Primal Fear e Brainstorm. Passiamo alla formazione dei Nevermore. Ormai pronto l'album solista del chitarrista dei Nevermore, Jeff Loomis, si intitolerà Ultimate Shred Records e sarà interamente strumentale. La produzione è affidata a Neil Kernan, noto per il suo lavoro con Dokken, Nevermore e Queensryche. Nel frattempo Jeff ha suonato come special guest nell'album solista del suo compagno di band, il cantante 39enne Warrell Dane. Riguardo l'album di Dane, si intitola Praises to the War Machine, presenta 11 brani e due sono delle cover, cioè Lucrezia My Reflection dei Sister of Mercy e Patterns di Paul Simon. L'album è stato mixato dall'ex chitarrista dei Soilwork Peter Wickers, che ha contribuito anche alla stesura delle canzoni. Per le parti di chitarra c'è il chitarrista degli Imsa, Matt Wicklund. E proprio da questo album, appunto, di Warrell Dane, andiamo a proporre il brano che lo apre, When We Pray. il lavoro solista di Warren Dane, il nuovo singolo da The Formation of Dalmatian per la formazione dei Testament, il pezzo si intitola More Than Meets the Eye. Per questa thrash metal band, la formazione naturalmente quella dei Testament, da questo loro nuovo album The Formation of Damnation, da quale oggi abbiamo proposto e ascoltato quello che risulta essere il singolo More Than Meets the Eye. Siamo nell'ultima parte, come io avevo preannunciato, chiuderemo con l'intervista a questo trio, ce ne sono due su tre comunque, di chitarristi, chitarristi che ritroverete anche dal vivo prossimamente, e saranno loro stessi a parlarvi di tutto questo. Quindi li andiamo, io ho già effettuato questa intervista con loro alcune settimane fa, poi ci ritroveremo anche per i saluti finali. Ospiti questa sera due chitarristi di un terzetto che si chiama String 24, nell'ambito di Hard and Heavy, anche se si troverà di tutto, ne parleremo e poi magari li andrete a vedere e vi renderete direttamente conto di quello che stiamo parlando. È un progetto particolare, mi ritorna un po' in mente il periodo degli anni Ottanta, quando uscivano per la Chaparral Records un sacco di album proprio dei chitarristi, e tutti se li andavano ad ascoltare, acquistare, eccetera eccetera. Qui di album forse se ne parla, forse no. Allora vado a presentare sia Frank che Sebo del progetto String 24. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. E poi il terzo, perché sono tre chitarristi, che è Gian. Salutiamo Gianluca. Ok. Che cos'è e come nasce questo String 24? Sono 24 corde, perché? Allora, 24 corde non perché ci siamo persi un chitarrista per strada. Ok. Bensì perché utilizziamo, tra l'altro, tra le altre cose, tutti e tre uno strumento a 8 corde, che è uno strumento di recente introduzione sul mercato. Chitarra a 8 corde prodotta dalla Ibanez, sì, che ha deciso di sponsorizzarci, di supportarci ufficialmente in questo progetto, perché in effetti probabilmente uno si può domandare che cosa possono fare tra chitarristi con tre strumenti di questo genere. Infatti ci stiamo molto divertendo ad ampliare quelle che sono le possibilità armoniche di questo strumento, senza lasciarci attrarre troppo facilmente dal fatto di buttarsi sull'ultima corda a fare i ritmi buoni come esatto. Sarebbe più normale fare. Allora, è un progetto che appunto voi portate in giro già da un determinato periodo di tempo, sia con delle clinics, e poi ne parleremo, sia con delle esibizioni, vero e proprio concerto. Esattamente, giusto? Con delle esibizioni live. La cosa divertente a nostro avviso è che siamo tre chitarristi di stili provenienza differenti. Completamente diversa, con una storia musicale diversa. Io che sono Frank Caruso, che ha una formazione sicuramente più metal, Sebox Otto, che ha una formazione sicuramente più rock and roll, sì. E Gianluca, che salutiamo, che ha una preparazione sicuramente molto più attuale, più progressive. Esatto. Noi lo conosciamo per le sue prestazioni con Time Machine. Machine, con Art of Sun, eccetera. Ecco, per quindi cui sono tre stili diversi. Assolutamente. Questo permette anche di, quando vi ponete dal vivo, di far vedere proprio i vostri tre stili, che ben si adattano all'utilizzo della particolare chitarra in questione. Esattamente, esattamente, perché comunque la struttura dei nostri brani prevede sia delle parti solistiche di ciascuno di noi che delle parti corali, quindi di noi tutti insieme. No, sempre armonizzate, proprio cercando di valorizzare, proprio come diceva Stefano, il grande spettro sonoro e acustico che uno strumento come la 8 corde ti può dare. Credo che Stefano mi può confermare. Certamente, poi soprattutto stiamo anche sfruttando gli studi del nostro Frank Caruso, che avendo studiato molto anche musica sacra, sì, per cui anche un tipo di utilizzo dell'armonia diverso, non convenzionale, ci proponiamo di fare delle armonizzazioni di chitarra senza fare gli Iron Maiden, dopo che gli Iron Maiden lo fanno dal 78. Esatto. Quindi voi avete già tenuto in alcuni, definiamoli clinics, appunto si chiamano, sì, così, in alcuni negozi particolari, eccetera, dove spiegate giustamente una lezione. Dello strumento, esatto. È un incontro lezione in cui spieghiamo lo strumento, spieghiamo quello che facciamo, e poi altre esibizioni puramente live. È stata bellissima la serata con Andy Timmons, con cui c'è stata anche una jam session finale con un bellissimo Little Wings, tutti insieme. Quattro chitarre sul palco. Non male. Ecco, in tutto questo comunque utilizzate delle cose preregistrate a livello di basi? Soltanto per motivi logistici e laddove è necessario, nel senso che per le esibizioni propriamente live che avremo a CD finito usciremo con la band al completo. In situazioni dove possiamo proporre magari soltanto 3 o 4 brani preferiamo muoverci con delle basi che prevedono soltanto registrate basso e batteria. Basso e batteria. Tutte le chitarre che si sentono sono rigorosamente live. Ecco, voi non utilizzate in queste esibizioni solo la 8 corde, perché ci sono brani blues, brani più rock and roll, anche un paio di cover ogni tanto proponete, e poi brani vostri scritti appositamente. Esattamente, anche perché nei nostri progetti c'è il fatto di entro l'anno di far uscire il nostro disco. Un CD, quindi difficile, hai detto tre stili diversi, tre canzoni a testa, come ve le state giostrando? No, vogliamo uscire dal rischio di fare l'Italian G3, non è questa la nostra idea, lo dico molto chiaramente. Sarebbe stato molto semplice fare tre brani a testa, abbiamo voluto sfidare un po' noi stessi e fare un qualcosa di più. Per cui in tutti i brani siamo sempre presenti tutti e tre i chitarristi, alternando e contrapponendo il nostro solismo, il nostro fraseggio, anche con aspetti diversi, e incontrandoci sempre in un punto del brano, mettendo insieme tutte quante le chitarre. Ma infatti una delle cose più emozionanti di questo progetto è proprio il fatto che magari uno di noi tre scrive un brano con tutte le armonizzazioni. Riascoltare il brano con le stesse parti risuonate dagli altri ha un sapore completamente diverso ed è molto stimolante, appunto, infatti ci sta facendo lavorare a un buon ritmo, direi. Sì, e devo dire che la meta ultima di arrivare al CD a fine anno comunque è comunque impegnativa, siamo a metà lavoro. Chi vuole aggiornamenti può venire a trovarci sul MySpace, sito ufficiale, che è www.strings24 scritto 24 in numero.com, o il MySpace, che è myspace.com/strings24, dove magari trovate anche delle esibizioni troveremo live. Esatto, fra poco ci sarà anche qualche filmatino delle nostre registrazioni, delle vostre performance, diciamo così. Ma c'è già qualcuno al mondo tra i chitarristi a noi noti che utilizza questo tipo di chitarra? Allora, lo strumento a 8 corde è stato creato da Ibanez principalmente per la band dei Meshuggah, che ne fa ampio utilizzo. Come era successo anni fa con Steve Vai, per cui fu creata la 7 corde, inizialmente si pensava fosse uno strumento dedicato solo alle sue evoluzioni, alle sue capacità compositive. Poi invece la sette corde in effetti è indubbiamente diventata uno strumento utilizzatissimo a tutti i livelli, proprio perché nel metal moderno molto low tuned, cioè basato su accordature molto più basse, la sette corde è diventata uno strumento quasi indispensabile. Okay. Per cui io mi aspetto che anche questa otto corde dove si va a collocare, quindi secondo te voi state dando una dimostrazione che può essere utilizzata, sì, in noi stiamo dando un taglio completamente differente. Diverso, volutamente, nel senso che, per carità, a me piace Meshuga, quello che fanno è eccezionale, però è un utilizzo, volendo è il più immediato come utilizzo, cioè nel senso che quando prendi in mano una chitarra che ha un suono molto grave, la prima cosa è fare un accordo molto basso e uno stoppato molto pesante. Quello che stiamo cercando di fare noi è di dare un aspetto armonico, per cui nei nostri brani che sentirete c'è un ampio uso di tapping armonizzati, mi vengono in mente i tapping di Satriani ai tempi di Surf with the Alien, esatto, immaginate di poter aggiungere due corde, quindi è un concetto più da arpa che da chitarra. Esattamente. oltre da sentire, perché noi possiamo parlare fino a quanto ne vogliamo, però se non si ascolta e soprattutto non si vede dal vivo, è da sentire e da vedere, è da vedere. Allora diamo un appuntamento a tutti coloro che sono interessati a un giorno dedicato alle chitarre, che è il Guitar Day, che si terrà il prossimo 8 giugno proprio qua a Milano al Music Drum, dove tra tutti gli altri ci sarete anche voi, quindi String 24, a dare un'ampia esibizione di questa 8 corde e di altre 6 corde, 7 corde eccetera, con presentazioni magari di alcuni vostri brani che andranno a far parte di questo CD. Allora ringrazio Frank, ringrazio Sebo, salutiamo Gian se è all'ascolto. Altre cose da aggiungere? Dimmi tutto. Grazie a Rock FM per essere sempre così attenta sul pezzo, anche su ciò che è nuovo, non necessariamente su ciò che va. Quindi e in anteprima andiamo ad ascoltare anche un brano, d'accordo? Yes. È proprio un estratto appunto da quello che sarà poi l'evoluzione completa, mixata meglio di questo, di un brano che si unirà dalle altre canzoni di questo vostro album d'esordio. Grazie, String 24. Ciao, ciao. Ciao. grazie allora alle tre chitarre degli String 24, arriviamo in addirittura d'arrivo per questa nostra serata con l'ultimo appuntamento di Hard and Heavy su Rock FM, ma vedrete che da qualche altra parte l'avventura di Hard and Heavy proseguirà. Ci sto lavorando e quindi state tranquilli, ringrazio naturalmente tutti coloro che nel corso di questi anni hanno seguito i vari appuntamenti di Hard and Heavy, una volta nel pomeriggio, una volta era collocato in tarda serata, ora in questa fascia di prima serata. Un grazie a tutte le etichette, dalle più piccole alle più grandi, che hanno collaborato con me, con questo programma. Un ringraziamento a tutte le band italiane e straniere che si sono presentate nel corso di questi 15 anni di mia presenza qua a Rock FM nello spazio di Hard and Heavy. Un grazie a Simone Scavo, veramente di tutto cuore, e naturalmente un grazie a voi. Alla prossima, vedrete che ritorneremo con Hard and Heavy. Ciao ciao! Mariposa, Corso Lodi numero 1 a Milano, ti ha presentato...